Il gastronauta di Davide Paolini. E oggi parleremo di un argomento, come già preannunciato, molto particolare, che sono gli aromi. Devo dire che in questi mesi spesso abbiamo ricevuto delle telefonate su questo argomento, abbiamo ricevuto sms, email, e abbiamo pensato appunto che di dare così risposta a molti di questi quesiti facendo oggi questa trasmissione. Questa parola aroma è molto misteriosa per molti consumatori che la trovano spesso nelle etichette. Allora io voglio subito cominciare con un professore universitario, Dario Brassanini, docente di chimica. Buongiorno Dario. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Allora io vorrei proprio darti 5 minuti di una lezione, perché secondo me è importante, una lezione come si fa all'università, come si fa a scuola, di didattica, di spiegare cosa sono gli aromi e quale tipo di aromi, perché così diciamo che togliamo molti dubbi e molti dubbi ai nostri radioascoltatori che ci hanno scritto spesso cosa si nasconde dietro questa parola. A te. Ah, benissimo. Allora, dunque, gli aromi sono delle sostanze chimiche, delle molecole, che, come dice il nome, hanno un determinato aroma e un determinato gusto. Sono, per esempio, normalmente presenti in tutti i vegetali, la frutta, gli alimenti che mangiamo. Quando noi annusiamo, che ne so io, della vaniglia naturale, il nostro corpo, il nostro naso e il nostro sistema dei recettori sta sentendo, reagendo con delle particolari molecole che generano queste reazioni olfattive. Ecco, qui ti fermo un secondo perché do il numero verde, sì, perché magari qualcuno vuol già intervenire. 800 24 00 24 349 238 6666. Siamo arrivati quindi agli odori. Ok. Allora, l'industria alimentare fa un largo uso di sostanze che hanno un particolare aroma per aromatizzare, modificare, intensificare l'aroma e il gusto dei vari alimenti che possiamo mangiare tutti i giorni. Tu hai accennato prima al gelato, allo yogurt, ma li si trovano in tantissimi altri posti, nei biscotti, in tantissime altre cose. La normativa europea, quindi sono molecole, la normativa europea distingue due categorie grossolanamente, e infatti noi sulle etichette possiamo trovare scritto aromi oppure possiamo trovare scritto aromi naturali. Allora, qual è la differenza? La normativa prescrive che gli aromi naturali siano delle molecole che sono state derivate da una materia prima di tipo naturale. Faccio un esempio. Ad esempio, se io prendo la vaniglia, normalmente uno usa in pasticceria la vaniglia, la stecca di vaniglia, però io in teoria potrei estrarre la sostanza chimica responsabile per il 99% dell'aroma della vaniglia, che è una molecola particolare che si chiama vanillina. Allora io in teoria potrei prendere, in teoria si fa anche in pratica, ecco, prendo della vaniglia, faccio un procedimento di estrazione, si fanno degli infusi con dell'alcol e così via, fino poi a purificare la vanillina pura. Ecco, in questo caso io posso poi prendere questa molecola, che ha bisogno proprio di dosi bassissime perché è molto intensa, aggiungerla ad altre preparazioni, agli biscotti, alla panna cotta, non lo so, qualsiasi altra cosa, e posso scrivere in etichetta che è un aroma naturale. Questo però, ecco, gli aromi invece, senza la scritta naturale, significa che sono stati o sintetizzati da zero in laboratorio a partire da altri tipi di sostanze, oppure addirittura non esistono in natura. Questa però è una distinzione che ha più un interesse commerciale o per il consumatore che non dal punto di vista tossicologico, cioè spesso si ha magari un po' più paura quando si legge un aromi e invece uno si sente più rassicurato quando legge aromi naturali, ma in realtà non è così, nel senso che la normativa giustamente prescrive che ogni singola sostanza che viene aggiunta agli alimenti debba essere testata per le sue proprietà di sicurezza. Tanto è vero che ci sono molte sostanze naturali, che sono naturalmente presenti negli alimenti, nei vegetali che mangiamo, che sono tossiche o comunque hanno problemi, possono dare problemi se assunte in dosi elevate. Anche la menta, per esempio, o il basilico contengono delle sostanze che addirittura qualcuna è anche addirittura sospetta di essere cancerogena, in dosi molto alte, assunta continuamente. Quindi insomma, uno deve partire comunque dal presupposto che quello che noi mangiamo, insomma, è sicuro, perché le normative europee sono piuttosto Ecco, allora io ti faccio una domanda. Abbiamo parlato, hai detto, aromi naturali e aromi. Sì. Ma quello che viene identificato come aromi artificiali sono quelli che tu hai identificato come aromi, oppure è un'altra cosa ancora? Allora, la distinzione... Una volta c'era una diversa normativa in Europa, e quindi c'erano addirittura tre categorie. C'erano gli aromi naturali, che ho già descritto, gli aromi naturali identici. Sì. Vuol dire che se io voglio sintetizzare la vanillina, però invece che estrarla dalla vaniglia, la sintetizzo chimicamente in un'altra maniera e ottengo comunque sempre la vanillina, che ha le stesse proprietà, allora la chiamo natural identica. E poi c'erano gli aromi artificiali. Questa distinzione però il consumatore la trovava piuttosto, insomma, veniva confuso, e allora la nuova normativa europea, che sta entrando proprio in vigore nel 2010, nel 2011, ha abolito il nome di aroma artificiale. Quindi esistono solo gli aromi. Sì. Che quindi comprendono quelli che una volta venivano chiamati aromi artificiali, quindi anche sostanze non esistenti in natura, e aromi gli aromi naturali identici e gli aromi naturali. Bene, Antonio dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Davide. Buongiorno. Niente, volevo solo precisare, non mi ricordo più di dove ho letto, dove ho visto, che ci sono delle aziende specializzate che praticamente assemblano questi prodotti fino a ottenere il gusto e l'aroma, con degli assaggiatori che assaggiano se va bene, non va bene. Poi vengono codificate in base alle richieste dell'azienda, praticamente. Le formule vengono codificate, quando l'azienda ha bisogno di questo aroma è pronto, cioè glielo fanno su misura. Bene, sì, ma mi sembra, Dario, che sia il discorso degli aromi di cui abbiamo parlato. No? Sì, assolutamente. C'è un'azienda leader nel settore, si chiama Firmenich, è svizzera, è specializzata proprio nel ricostruire in laboratorio l'aroma specifico di una qualsiasi prodotto naturale. Ecco, abbiamo già risposto a molti sms che chiedevano cosa sono gli aromi naturali, però c'è una domanda che mi piace molto: che senso ha usare gli aromi? Non è una forma di contraffazione del cibo? È come vendere sassi dipinti di oro proponendoli come oro? Questo, diciamo, forse è meglio che risponda a un responsabile di un'azienda alimentare, però credo che il problema fondamentale credo sia per esempio nell'intensità dell'aroma. Se io voglio produrre, che ne so io, uno yogurt alla fragola, allora devo, se sono un'azienda, devo tenere in conto che la qualità delle fragole che mi vengono conferite allo stabilimento è diversa, cambia nel corso per esempio dell'anno. In alcuni mesi magari le fragole saranno meno intense, avranno un aroma meno intenso. Allora, se c'è una necessità di standardizzare il prodotto, le aziende, per esempio, se sono interessate a un certo tipo di prodotto standard, aggiungono la quantità necessaria di aroma di fragola per, diciamo, avere un prodotto di qualità costante. Attenzione però che qui c'è un problema appunto di tipo di informazione, nel senso che aroma naturale, c'è un equivoco, non necessariamente, se io compro uno yogurt alla fragola e c'è scritto aroma naturale, non significa necessariamente che l'aroma che è stato aggiunto sia stato estratto dalla fragola. Basta che sia estratto da un prodotto naturale. In particolare l'aroma di fragola viene prodotto con una fermentazione di microrganismi che producono una sostanza che è analoga o identica a quella che c'è nella fragola. Beh, questo credo che sia molto importante da comunicare, mi sembra che sia la cosa forse più importante, perché magari qualcuno pensa di trovare le fragole intere magari comprate alla mattina nei campi. Rimani sempre con noi, sentiamo. Sì, Maurizio dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a lei. Niente, io senza colpevolizzare il prodotto, no, ma io so per certo che esistono, ad esempio, panettoni in cui viene messo il gusto di panettone, perché sennò probabilmente quel panettone non sa, il salame che viene messo l'aroma da salame, se no il salame non sa, e cose di questo genere. Cioè questo, secondo me, è una piccola truffa nei confronti del consumatore. Bene, io credo, caro Maurizio, che sul panettone il più grande problema sia l'utilizzo dei conservanti, ma magari quello è un altro problema ancora che potremo discuterne e vederlo in futuro. Volevo solo fare una battuta con Bressanini a proposito di quel radioascoltatore che ha parlato di oro, che a quanto pare la famosa foglia d'oro sul riso di quel famosissimo piatto di Gualtiero Marchesi. Ora con la legge sul provvedimento che è stato varato sugli additivi, sembra che non debba più essere usata, è così? Beh, sì, probabilmente sì, l'oro è un additivo, adesso non lo so. Ecco, quindi ecco, dicevo che questo è veramente buffo, è veramente buffo. Bene, abbiamo con noi Loris Molin Pradel, che è presidente della Federazione degli Artigiani Gelatieri, che sono una potenza anche in Germania, oltre che in Italia. E allora io volevo chiederle, ma in gelateria si dice che l'uso di aromi sia molto forte, ma chi si definisce artigiano, fino a che punto può utilizzare gli aromi? Buongiorno a tutti innanzitutto. La ringrazio della domanda, perché veramente è un'occasione per precisare una nostra visione proprio della gelateria artigianale. Allora, la forza del gelato artigianale sta nella freschezza della produzione. Non so, mi sembra che una volta proprio con lei avevamo avuto occasione di parlare di coloranti, e sa quanto noi siamo contrari all'utilizzo dei coloranti, e infatti mettiamo in guardia i clienti dai gelati che sono, diciamo, troppo sgargianti come colore, e che sicuramente sono un segno di utilizzo di prodotti non naturali. Lo stesso discorso si può, diciamo, calare anche sul discorso degli aromi. Perché, ad esempio, parlava giustamente prima il vostro ospite dell'aroma di fragola. Se noi prendiamo un aroma di fragola chimico, io mi sono un attimino documentato e scopro che ci sono dentro la bellezza di 48 componenti chimici, i cui nomi, vabbè, da inesperto non mi sembrano neanche appunto rassicuranti. Chiaramente, se lei va in una gelateria e trova tutti i giorni il gelato alla fragola che ha lo stesso sapore tanto il mese di marzo che il mese di settembre, è probabile che in quella gelateria venga utilizzato un prodotto che contiene degli aromi naturali, cioè potrebbero essere anche naturali, ma può anche darsi che siano naturali identici, e fin qui, diciamo, sarebbe il minimo, oppure addirittura aromi di tipo chimico. L'artigiano è orientato a utilizzare la propria produzione su prodotti acquistati, non dico quel giorno, ma in stagione. È chiaro che le potrà capitare un giorno di trovare una fragola buonissima, certo, e il giorno dopo magari un attimino meno. Diciamo che si può permettere del gioco, diciamo. Ecco. Diciamo che si può permettere anche a un gelatiere di comprare certe frutte e poi surgelarsele per conto proprio e ritirarle fuori magari in altro momento. Questo credo che sia una cosa, certo. Rimanga con noi, sentiamo, abbiamo molte telefonate. Beppe Palmieri da Modena, buongiorno. Ciao Davide. Buongiorno Beppe. Buongiorno, come va? Poi dirò chi sei, perché ho capito. Raccontaci. Mi sono permesso di intervenire perché speravo di lanciare una riflessione importante, che è un po' un'ossessione che è sana e positiva, che mi perseguita da un po', che è quella di fare attenzione nel metabolizzare come consueti quelli che possono essere sia i gusti che gli odori, gli aromi, quando ci si abitua a consumare un prodotto convenzionale, no? Che per convenzionale poi molto spesso purtroppo si subisce un prodotto che è di carattere industriale. Voglio dire, i parametri che ci offrono oggi nella quotidianità per chi si rivolge all'acquisto, poi a un consumo nella grande distribuzione, troppo spesso sono di carattere cosmetico. E quindi secondo me è importante fare un sacrificio e cominciare a recuperare l'abitudine a consumare sapori ed aromi che siano autentici. Questo è fondamentale, no? Io mi rendo conto che nelle mie conoscenze, tra i miei amici che non necessariamente debbano o devono essere gourmet come me, si fa fatica ad accettare il sapore intenso, autentico di una mortadella rispetto a quella artigianale, rispetto a quello che può essere il gusto convenzionale di una mortadella artigianale. Questo credo che sia, insomma, beh, un certo punto che può poi può essere certo, interpretato in maniera personale come si vuole. Certo, ci sono anche, come posso dire, esaltatori, e sicuramente si può creare anche dipendenza da certi sapori. Molte ricerche dicono che è lo stesso consumatore che le ricerca, e quindi che per molte aziende è destabilizzante cambiare, perché magari non si incontra più il gusto di un consumatore abituato a quella tipologia. Bene, comunque abbiamo parlato di gelato, abbiamo sentito il presidente degli artigiani gelatieri della Fiagel, ma sentiamo ora un'azienda che produce aromi per la gelateria e la pasticceria. Buongiorno a Francesco Sandrone, direttore della commerciale dell'Agrimontana. Buongiorno a tutti. Ecco. Beh, vorrei subito togliere l'equivoco: noi non produciamo assolutamente aromi, produciamo ingredienti per la gelateria. Ci faccia questa distinzione allora. Sì, no, per noi la parola aromi non esiste in nessuno dei nostri prodotti, io la considero una brutta parola, nel senso che non è innocua per il consumatore, perché evoca, che so io, il rosmarino, la salvia, e in realtà è pericolosa. Noi sconsigliamo tutti i nostri gelatieri, tutti i nostri clienti, tutti i nostri pasticceri di usare mai la parola aromi, perché equivoca, perché può esserci dietro qualunque cosa. Ma mi scusi, se aggiungo rosmarino, scrivo rosmarino, se aggiungo olio essenziale di arancia, scrivo olio essenziale di arancia, perché questa mancanza di trasparenza? Mi stupisco il professore che dice è per standardizzare, ma lui mangerebbe mai una fragola con iniettato dentro l'aroma fragola? Beh, glielo chiediamo subito, Bressanini, tu che sei anche un gourmet. Sì, no, a me piacciono le fragole, in effetti anch'io quando compro le cose appunto confezionate sono un attento lettore di tutte le etichette. Io stavo semplicemente riportando la motivazione per cui l'industria alimentare utilizza certi aromi, e la spiegazione, non necessariamente io sono un fanatico degli aromi, ecco. Quello che volevo mettere in evidenza è che aromi o aromi naturali, dal mio punto di vista di consumatore, non mi dice niente di più, insomma, non è che una categoria da preferire all'altra. Sandrone. Cioè, è strano che l'azienda Agrimontana, che dovrebbe far parte della lobby, no? Invece difenda queste posizioni piuttosto talebane. Però per noi, sui nostri prodotti, non c'è mai scritto la parola aromi. Quindi sono ingredienti naturali, insomma, lei è questo che vuol dire. Assolutamente. Ma bene. non sono, come diceva quel l'ascoltatore di prima, non sono contraffatti. Perché far capire, cioè io prendo prendo la marena, no? Una ciliegia che è stata tenuta in salamoia, decolorata, colorata e aromatizzata, che viene venduta al gusto di amarena. Ecco, se io vedo qualcosa al gusto di, significa che rischio che il prodotto non ce lo trovo proprio, l'amarena non c'è per niente. Il gelato al gusto di fragola potrebbe anche non avere la fragola. Sentiamo un radioascoltatore, Emanuele della provincia di Taranto. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Davide, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi dica. Allora, niente, io volevo riallacciarmi al responsabile di Agrimontana per condividere quello che lui ha dichiarato, nel senso di stare attenti alla parola aromi quando leggono aromi, perché dietro può esserci qualcosa di non genuino, di chimico. A me è successo sulla produzione dei nostri lievitati anni fa, parlo di oltre 10 anni fa, serviva un'azienda in conto terzi, e siccome loro avevano esigenza di tempi lunghi per la commercializzazione, loro stesso mi procurarono un'antimuffa. Dunque, questa antimuffa, quando me la consegnarono, anche con un certificato che sopra si poteva, non so come hanno fatto, non so come mai il Ministero abbia dato, oppure dava questo consenso, si poteva etichettare come aroma, ma era un'antimuffa e quindi era un prodotto chimico. Questo volevo solo. Bene, ho capito che sei un pasticcere di grottaglie, se non erro. Sì. Bene, grazie Emanuele Lenti, a presto. Bene, io ora ho in linea uno chef molto famoso, un 3 stelle, che è Max Alaimo, Massimiliano Alaimo delle Calandre di Rubano, provincia di Padova. Ebbene, è singolare che sia uscito con una linea di prodotti che si chiamano ingredienti, e prima abbiamo avuto un intervento così molto preciso, molto anche, se vogliamo, come posso dire, scioccante di Francesco Sandrone dell'Agrimontana, che ha detto: perché chiamarli aromi? I nostri prodotti si chiamano ingredienti. Allora, Massimiliano, ma i tuoi ingredienti sono tutti, diciamo, aromi tratti, non sono aromi, cioè sono veri e propri ingredienti? Beh, sono ingredienti, sono aromi nel senso che sono sostanze aromatiche. Quindi ottenuti come? Ma sono ottenuti per spremitura o con estrazioni in CO2, per cui estremamente naturali, estremamente profumate, e derivano dalla materia prima. Ho capito. Senti, vengono molti usati in cucina, a parte, diciamo, i prodotti che tu ti sei autocreato, quindi non ricorri all'esterno. Di solito, in, diciamo, nella cucina, questa cucina, diciamo, chiamiamola d'avanguardia, molto nuova, c'è molto utilizzo, molto ricorso a, diciamo, aromi, chiamiamoli così, aromi come prima ci ha definito Bersanini dalla nuova legge. C'è un distinguo da fare tra ciò che è realmente naturale e quello che è di sintesi. Ecco, io uso solo cose naturali. E per quanto riguarda la sintesi, non credo che sia così in utilizzo nella ristorazione. Quindi si ricorre al naturale, insomma. Ma ecco, cioè, tu te le sei creati perché in questa maniera, cioè, agevolano le tue preparazioni? Sì, diciamo, è stato un percorso che ho affrontato con Lorenzo. Il profumo viaggia attraverso dei canali sensoriali preferenziali, per cui attraverso l'ippocampo, attraverso l'amigdala, sfrutta quello che è il centro memoria a lungo termine, per cui va direttamente a toccare le nostre emozioni, a differenza della vista e degli altri organi che tendenzialmente passano attraverso la parte razionale. Ora noi abbiamo messo a punto questa linea, che è comunque in continuo sviluppo, cercando di attraversare la materia, per cui ingredienti, come dicevi te prima, proprio la penetrazione della materia, il fatto di poter catturare ciò che è la parte più volatile, no? La parte più affascinante, appunto contenendola e diluendola con dell'alcol puro, perché un altro aspetto fondamentale è la diluizione, perché queste cose qui hanno delle capacità potentissime e vanno ovviamente calibrate, perché poi rovinare una pietanza con una goccia di essenza pura, questo non va bene. C'è da dire che i nostri sistemi di estrazione si dividono tendenzialmente in due categorie. Per quanto riguarda gli agrumati, vengono estratti per spremitura come un olio di oliva, deterpenati, che significa togliere quella componente facilmente ossidabile e poco digeribile, che se vogliamo dire è la parte contenuta in una scorza di arancia, la parte bianca, per intendersi, quella viene estratta, viene tolta con una lavorazione sotto vuoto a bassa temperatura, per cui, come vedi, non ci sono utilizzo di nessun genere di solvente. Per quanto riguarda invece tutto il resto delle estrazioni, lavoriamo sulla materia prima secca, per cui immaginiamoci un anice stellato che viene messo in questi cilindri, sono macchinari costosissimi, assolutamente all'avanguardia, con 68 atmosfere, a una temperatura molto inferiore alla temperatura di distillazione classica, che va ovviamente ai 100 gradi. Questo tipo di estrazione avviene dai 37,7, con temperature molto specifiche. Questo significa che tu estrai, cioè coinvolgi tutta la materia grassa della materia, che è l'olio essenziale, all'interno di questa CO2, che viene trasportata e condensata a temperature specifiche per avere un tipo di estrazione che può interessarti, che può essere totale, parziale, eccetera, e la CO2 poi viene recuperata e rimessa in circolo per altre lavorazioni, e la materia risulta assolutamente intatta da un punto di vista molecolare, tant'è che questo tipo di estrazioni vengono utilizzate moltissimo in medicina per la realizzazione di alcuni medicinali. Bene, non riveliamo altri segreti perché poi magari qualcuno prende nota. Max, c'hai abbastanza chiarito, ma io ti voglio chiedere cosa succederà il 20 di dicembre a Brusaporto al ristorante 21. Vittorio. 21, scusami. Domenica 21 marzo alle 12. C'è un viaggio emozionale, nel senso che ci sono 7 chef che radunano un po' tutta il concetto della cucina italiana. Ci sarà Pino Cutaia, Lo Priore, Anife Olde, Gianluca Fusto, Ugliassi, Chicco e Bobo Cerea, poi ci sarà il sottoscritto con suo fratello. C'è un pranzo di beneficenza che sai che noi organizziamo ogni anno e che tu batti l'asta, per cui ti ricordo di venire. Sarà un costo di 650 euro totalmente devoluti in beneficenza. Gli enti beneficiari sarà la Casa Padre Aldo di Bergamo, sarà la Fondazione Città della Speranza come sempre e il Dipartimento Pediatrico di Padova. Bene, grazie a Max Alaimo. Io ho con noi Paolo Fantozzi, che è un professore ordinario di tecnologie alimentari alla Facoltà di Agraria di Perugia. Volevo chiedere, professore, ha ascoltato quello che ci ha raccontato Max Alaimo, lei cosa ne pensa di questi prodotti? Salve Paolini. Niente, ho sentito con interesse quello che lui diceva, in particolare per la parte degli aromi naturali che vengono estratti con le tecniche che lui ha illustrato, abbastanza chiaramente, mi sembra correttamente. La migliore sicuramente è quella dell'estrazione con anidride carbonica allo stato supercritico di cui lui parlava, che è una tecnica costosa ma che garantisce che il prodotto naturale venga estratto senza alcuna modificazione importante e nella conservazione di tutte le sue caratteristiche. È una tecnica che viene utilizzata per esempio anche per fare il caffè decaffeinato, per estrarre colesterolo dalle uova, è una tecnica veramente tranquilla, così come quelle per pressione a cui lui faceva riferimento. Questo per tutta la categoria degli aromi naturali, ovviamente, no? Io non so che cosa abbiate detto nella prima parte della trasmissione, non so se è stato già spiegato quali sono le differenze sì, tra i vari tipi sì, di aromi. Sì, le abbiamo spiegate, ma da lei poi voglio sapere questo. Lei pensa che molti aromi siano usati per dare dipendenza al consumatore? Questo è un tema molto... molto particolare, molto delicato. C'era stata tutta una grande diatriba, se lei ricorderà, sulla aggiunta di particolari aromi nelle sigarette che servivano per creare dipendenza insieme alla nicotina. Nel caso degli alimenti io non vorrei dire questo, credo che sia veramente un pochino azzardato. È vero che tutto ciò che noi mangiamo, per il ricordo a cui ha fatto riferimento una persona ha fatto un intervento precedentemente, il ricordo per noi, se positivo o se negativo, ci dà comunque una dipendenza, una sensazione positiva o negativa come ricordo. Però tra dire che l'assunzione ci crea dipendenza, secondo me è un pochino azzardato. Ecco. Bene, grazie professor Fantozzi, grazie. Sentiamo Gabriella da Prato, una radioascoltatrice. Buongiorno. Io ho sentito prima che il basilico ad alte dosi può essere cancerogeno. Visto che il pesto alla genovese è basato fondamentalmente su quello, volevo sapere che cosa intendete per alte dosi. Ma non so, mi è sfuggito chi l'ha detto. Bressanini, tu puoi rispondere a questa domanda? È uscita un po' di anni fa. Allora, il basilico contiene... basilico adulto contiene una sostanza che si chiama metileugenolo. Questa sostanza, diciamo, è in una lista di possibili sospetti cancerogeni, tant'è vero che nella legislazione europea che citavo prima è addirittura vietato l'utilizzo di metileugenolo come aroma, anche se è un aroma naturale. Però la legislazione dice giustamente che non è possibile ovviamente togliere questa sostanza dal basilico. Ecco, e questo succede per tantissime altre sostanze che possono essere tossiche in varie maniere. Però volevo rassicurare l'ascoltatrice che le alte dosi a cui si fa riferimento non sono quelle di un consumo, diciamo, casalingo normale di pesto, quindi, diciamo, hanno fatto dei test con dei ratti e li hanno riempiti di metilugenolo e allora ad altissime dosi è stato sviluppato una particolare. Non distruggetemi il pesto. Io continuo a mangiare pesto senza problemi. Salvatore da Ragusa, buongiorno Salvatore, prego, veloce che devo chiudere. Allora, intanto complimenti per questa trasmissione che dà la possibilità di capire qualche cosa in più su quello che mangiamo. Io sono un medico veterinario del servizio sanitario e noi abbiamo il compito anche di vigilare un po' sui prodotti di origine animale, eccetera. Io vorrei però dire, espatare questo mito del naturale. molte volte pensiamo a questo cibo naturale, ma i cibi naturali oggi si possono contare sulla punta delle dita. Noi siamo immersi nella chimica in tutti i sensi. Qualsiasi alimento che noi mangiamo ha della chimica aggiunta, perché mentre un prodotto artigianale, così come era prodotto prima, attingeva alle riserve di natura direttamente, è chiaro che quando questo prodotto viene ad essere ormai riservato a una, o comunque prodotto da una industria, quindi deve tenere conto dell'appetibilità del prodotto, del tempo in cui questo prodotto deve conservarsi, le aggiunte sono sempre necessarie per l'industria. Non so, noi sappiamo benissimo che il colore rosso del salame è un colore che non è naturale, ma è necessario per l'industria che deve portare al supermercato un prodotto che deve durare parecchio e deve attirare, perché il colore scuro a noi un pochino ci porta ad essere diffidenti, no? Mentre lo scuro dice invece il prodotto naturale dell'ossidazione di quanto noi mangiamo. Bene. Quindi dobbiamo capire la differenza, di naturale c'è ben poco, però è importante essere informati. Beh, certo, questo è una cosa, è questo importante, che cerchiamo di fare. Grazie Salvatore da Ragusa. Abbiamo con noi Corrado Senza del Caffè Sicilia di Noto, ma non solo del Caffè Sicilia, ormai è un personaggio importantissimo nel mondo della gastronomia internazionale, pasticciere, gelatiere, ma soprattutto anche creatore anche di prodotti. Corrado, non so se hai ascoltato parte della trasmissione, ma aromi o ingredienti, cosa ne pensi? Penso che soprattutto ingredienti e in seconda battuta aromi, ma assolutamente ed esclusivamente naturali, non aromi per imbellettare un prodotto, per conquistare e adescare facilmente il consumatore, ma per arricchire il nostro palato e il nostro gusto. Mi rendo perfettamente conto di essere contro tendenza, assolutamente, ma oggi è ancora possibile produrre artigianalmente, ma solo perché industrialmente non lo vogliamo, perché l'industria non ha interesse, non ha stimoli, visto che il consumatore non è educato, oltre che essere informato, così come suggeriva il veterinario di Ragusa, a produrre in maniera naturale, reale. Diciamo che è ancora possibile produrre in maniera reale, naturale, ma bisogna volerlo. La molla migliore qual è? La competizione. Non essendoci competizione, non ci potrà essere un interesse a produrre in maniera naturale. Noi al Caffè Sicilia, ma tanti altri micro artigiani come me, riescono oggi a produrre pani, biscotti, salumi insaccati, carni lavorate assolutamente in maniera naturale, facendo uso esclusivamente di aromatizzanti provenienti dalla natura e non, come la legislazione italiana recita, di origine naturale ma poi prodotti chimicamente, per rendere più gustoso e più buono ciò che mettiamo in bocca. Grazie, rimani con noi. Joseph è un radioascoltatore da Bergamo. Buongiorno Joseph. Buongiorno, buongiorno. Senta, io credo di essere d'accordissimo sul fatto che gli aromi siano più specifici, chiamarli ingredienti, in quanto credo cambiando il gusto di un cibo, penso che diventa componente fondamentale, quindi credo che sia giusto chiamarli ingredienti. Legandomi a un discorso precedente che era sulla sicurezza dei cibi, volevo sapere, visto e considerato che in un mercato sempre più globalizzato abbiamo cibi di importazione sempre più presenti nel nostro territorio, volevo sapere i controlli effettuati, se è giusto farli così a campione, o comunque sarebbe più giusto caricare queste aziende importatrici dei costi per un controllo alla fonte. Bene, io credo che la sua seconda soluzione sarebbe la migliore, però credo che con tante merci e tanto commercio internazionale sia un po' difficile sempre farlo alla fonte, lo dovrebbero fare gli stati da dove partono quei prodotti, ovviamente. Grazie comunque al nostro radioascoltatore. Ora abbiamo in trasmissione con noi un naso importante che ha lavorato anche con Max Alaimo sulla messa a punto dei prodotti di cui abbiamo parlato, Lorenzo Dante Ferro. Buongiorno Lorenzo, io volevo... Sì, buongiorno. Volevo chiederti questo: un naso quale apporto può dare alla cucina, alla pasticceria, alla gelateria? Ma la curiosità è che evidentemente questo naso che arriva sempre primo, cioè davanti a noi, anche a livello culinario alimentare ha una funzione rilevantissima. Possiamo anche così, forse un po' filosoficamente, sottolineare che prevalentemente mangiamo con il naso, il primo impatto, il primo collegamento di apprezzamento o appunto anche effetti contrari, si vede subito che tramite il naso c'è quel primo giudizio, diciamo, di quello che sentiamo poi nell'aria, e poi se viene confermato anche nella degustazione della struttura, dell'alimento, eccetera, poi c'è quell'apprezzamento totale, ecco, in quel contesto. Allora, questa analogia fra mangiare con il naso, musica per il naso, musica per il palato, se vogliamo, è strettamente pertinente, perché effettivamente gli stessi oli essenziali che possono essere utilizzati per creare un profumo sono gli stessi oli essenziali che vengono poi utilizzati o possono essere utilizzati anche in cucina, perché quando noi mettiamo una foglia di basilico in un passato di pomodoro, effettivamente facciamo una micro distillazione di quella foglia lì, e per estrarre effettivamente il profumo che è l'olio essenziale, ecco. Quindi l'odore è certamente con il colore è una delle prime, diciamo, prime motivazioni per cui si sceglie e si mangia qualcosa, giustamente. Quindi sicuramente il profumo ha la sua grande importanza. Bene, abbiamo con noi anche uno dei principi, un leader massimo della pasticceria, Gino Massari. Buongiorno Massari. Buongiorno a voi. Allora, in pasticceria, lei che rappresenta un po' anche molto la pasticceria italiana sia in Italia che all'estero, ma l'uso degli aromi è così diffuso? Beh, era molto diffuso anteguerra, poi si è persa questa cultura aromatica e ha riconquistato di nuovo i palati nell'ultimo quinquennio. E non è così sentita nei dolci, perché ci sono già degli elementi di base che sono già molto aromatici, qual è la frutta secca, il burro e tutto il cioccolato, così ci sono già dei prodotti che hanno già una carica aromatica molto forte. Ma sono ingredienti o sono aromi? Questa frutta secca? Allora, quando diventano concentrati diventano aromi, se sono al naturale, cioè usati come si raccolgono dalla pianta, fanno parte di un discorso aromatico e di sapori, perché si confonde molto l'aroma col sapore, che è una cosa totalmente diversa. Diciamo che il sapore aiuta a far uscire al massimo l'aroma, e con le due componenti si riesce a fare qualcosa di veramente straordinario. Se non c'è comunque la cultura di questo, è aria fritta tutto ciò che si dice. Certo, però molti prodotti che si trovano in giro, anche in pasticceria, sicuramente molte volte, insomma, lasciano molto a desiderare da questo punto di vista. Beh, come le stavo dicendo, c'è poca cultura nell'usare, nell'utilizzare gli aromi che sono. E quando parlo di poca cultura, quando si utilizzano a sproposito un aroma magari con un sapore molto acido, con un prodotto molto acido, è facile trovare poi il gusto dell'acido fenico, perciò bisogna stare molto attenti, soprattutto in pasticceria, a utilizzare certi aromi, perché possiamo avere dei giochi che non sono quelli che vogliamo. E perciò bisogna conoscere a fondo il proprio mestiere, e comunque bisogna sapere anche assaggiare. Se manca questo, vuol dire che proponiamo ai nostri clienti, magari di partenza sono dei prodotti di altissimo valore, alla fine certo invece sono dei prodotti che hanno poco valore. Grazie Gino Massari. Raffaele dalla provincia di Pavia, veloce che ho pochi minuti. Sì, buongiorno, io volevo portare la mia testimonianza, io sono per gli ingredienti e non per gli aromi. Purtroppo la grande industria ci porta ha portato il consumatore a non fare più questo distinguo, perché loro, a forza di una legge che possono usare gli aromi al posto degli ingredienti, che per fare un prodotto sia in pasticceria sia nel mio caso, io produco alimentari, paste ripiene, noi siamo piccoli artigiani e usiamo solo ingredienti, cioè spinaci per spinaci e asparagi per asparagi, mentre la grossa industria, ma questo a tutti i livelli, usano degli aromi, degli aromatizzati per creare per creare i prodotti, e questo purtroppo ha appiattito i sapori, certo, e anche gli odori. Bene, ecco. Omologato, diciamo, più che appiattito, omologato, perché credo che sia questa la parola giusta da utilizzare. Abbiamo comunque con noi, proprio per finire, il direttore tecnico dell'azienda Enrico Giotti, che è leader storica da anni nella produzione degli aromi. E Creti, ha sentito, quindi aromi o ingredienti? Cosa afferma un'azienda che produce aromi e non ingredienti? Sicuramente aromi, anzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sicuramente aromi, perché la comunità europea li definisce come tali, è una categoria a sé, non sono additivi. E quindi lei dice, cioè, la differenza tra, però c'è una differenza, diciamo, tra aromi e ingredienti, come c'è stata posta, o lei ritiene che possano, cioè, sulla dicitura siano la stessa cosa? No, io ritengo che proprio siano da considerare come una categoria a sé, perché un aroma è tutto ciò che conferisce sapore e odore a un alimento, e questo indipendentemente dal suo eventuale potere nutrizionale. E comunque un aroma non è necessariamente aggiunto dall'uomo, perché la natura ne ha già tanti di aromi dentro tutti gli alimenti. Quindi ora sta per uscire questo nuovo provvedimento, come ci ha detto Bressanini, che mi sembra adegui la legge comunitaria, il regolamento comunitario, a una legge americana, perché la legge americana faceva solamente distinzione tra due tipologie di aromi, ben precisa, tra aromi e aromi naturali. Le aziende cosa ne pensano di questa nuova regolamentazione? È sicuramente un provvedimento che darà più chiarezza al consumatore, perché ovviamente quando in etichetta vedrà scritto aroma naturale saprà di che cosa si tratta, e saprà ancora meglio di cosa si tratta se vede scritto aroma. Tra l'altro volevo aggiungere che da tutto quello che ho sentito, è stato molto esauriente, ci sono dei distinguo da fare proprio dal punto di vista del costo di un aroma naturale rispetto a quello di un aroma naturale identico, come era detto una volta, oggi si dice naturale. Si è parlato della vanillina, ecco, fare dei biscotti con la vanillina naturale costerebbe aromatizzare quei biscotti più di 1000 volte in più, quindi diciamo che sarà una scelta dell'imprenditore, del produttore di quei biscotti, tra l'aroma naturale e l'aroma normale. Bene, mi piacerebbe continuare, ma non ho più tempo, mi spiace per tutti gli ospiti, ancora alcuni che stanno aspettando, e magari chissà, potremo anche tornare, perché è un argomento che vedo che è molto sentito. Bene, io vi auguro un buon weekend, vi do appuntamento ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con la pillola del gastronauta, e ci sentiremo la prossima settimana. Buon weekend a tutti.